Yeah, un anno. Coppia di campioni, coppa dei campioni. Vroom, vroom. Scooteroni. Scooteroni. Dentro i marsupi di Gucci hanno quattro telefoni e la medicina. A uno come te dovrebbero proibire internet come in Cina. E addosso a una figa sicuro se lo sto cercando e non trovo il mio cap. Tu smetti di scrivere, smetti di vivere se ti sequestro l'iPad. Vroom vroom scooteroni. Scooteroni. Vroom scooteroni. Scooteroni sgaso sopra di te, sopra di te. Rispetto ai campioni, campioni. Vum vum scooteroni. Scooteroni. Barona fra dove sto, mi hanno dato la baronia. Ho una mia Maria Salvador che è di Salvador di Bahia. E più sprint di guai, più street cred di click. In posti della tua città dove non sei mai stato, tu che sei di lì. Non sono di strada, io sono la strada, quindi attento ad attraversarmi. Vedendo poi quanto è profondo il tuo impatto sul mondo, tua madre poteva ingoiarti. 50 dettaglio, 70 di taglio, saldi, soldi da Silicon Valley. Il lupo si veste da pecora, frate, mi vesto dagli stessi sarti. Gira le buone maniere, maniero, sì mi son fatto di tutto, ma ero. Punta alla piazza Tirana, che sembra di stare a Tirana, davvero. King Marrakesh, sofisticato Hermanes, HD Hermes nella cinta. Ho così palle che fra potrei mettere incinta una tipa già incinta. Dentro i marsupi di Gucci hanno quattro telefoni e la medicina. A uno come te dovrebbero proibire internet come in Cina. E addosso a una figa sicuro se lo sto cercando e non trovo il mio cap. Tu smetti di scrivere, smetti di vivere se ti sequestro l'iPad. Vroom vroom scooteroni. Scooteroni. Vroom scooteroni. Scooteroni sgaso sopra di te, sopra di te. Rispetto ai campioni, campioni. Vum vum scooteroni. Scooteroni. G capo dei capi va in tachicardia per la rima. La tua tipa mi prende per via orale, bro, come la tachipirina. Tu ti fai un colpo, io faccio un golpe. Il flow sulla luna per questo cammino. Per strada in moonwalker, veni vidi vici. Muse beatrici, son pute meretrici. Gatta sperando che vinci. Tingi, spingi finché il bilanciere vola. Omo zigota gemella che mi sbaralla sul toca. E verzigova, giù dalla boss Erzegovina. Donne importate, più di un cognome importante. Piega impennate, sta vita che ti fa pensare. In piccolo frate sei grande. Fossi un cartello sarai Sinaloa. Sto sulla street constrictor boa. La merce da Mauri contanti da salvo. Per fare cash programmati da cyborg. Babbo con te non mi aggrego. Duri un minuto con me come Gregor. Ritorna alla G, si festeggia l'avvento mo. Sparando da sopra un Aventador. Dentro i marsupi di Gucci hanno quattro telefoni e la medicina. A uno come te dovrebbero proibire internet come in Cina. E addosso a una figa sicuro se lo sto cercando e non trovo il mio cap. Tu smetti di scrivere, smetti di vivere se ti sequestro l'iPad. Vroom vroom scooteroni. Scooteroni. Vroom scooteroni. Scooteroni sgaso sopra di te, sopra di te. Rispetto ai campioni, campioni. Vroom vroom scooteroni. Scooteroni. Fumo ganja olandese, senza uscire dal mio quartiere, yeah. Usa in bol certe sere, ehi. 4 secondi da quelle sirene, yeah. Nel locale mandaci da bere. Comanda i tuoi amici se non ti sta bene, yeah. Per mano va bene le buste nei booster. Fra tre sugli scooter di Max, yeah. Le mi trova bello. Fulvio testi 180 in sorpasso. Tu su un motorello. In 4 ore uno stipendio intero. Stampa il sorriso in faccia a mio fratello. In 4 ore su un mezzo intero. Stampa il sorriso in faccia a mio fratello, yeah.